e dolore e morte e lacrime e paura e silenzio e lutto e tragedia e strazio e sangue e solitudine e tragedia e che palle! Salve a tutti, eccoci in diretta dal camper del progetto Pending. Siamo anche oggi sotto un pesante acquazzone autunnale e abbiamo iniziato con un aggiornamento sulla situazione della Campania con la voce di Anna Marchesini che elenca la situazione Covid in Campania. In un noto film si diceva poteva andare peggio, poteva piovere, ha iniziato anche a diluviare, quindi siamo qui con il camper, c'è Alessandra Galatro, special guest. Ciao Alessandra. Ciao, buonasera a tutti. Oggi è il suo compleanno di 25 anni, quindi siamo doppiamente felici di averla qui in questa bellissima atmosfera di pace e amore. C'è Camel. Buonasera a tutti. Munito di mascherina, un po' lontano, ha salutato, e Dorra, ciao. Buonasera a tutti. Gerardo, il nostro mitico condottiero del camper. Ciao, buonasera a tutti. E Gerardo, forse ti devi avvicinare un po' perché c'è il rumore della pioggia che è veramente impressionante. E abbiamo scoperto che Gerardo ha delle qualità durante questi viaggi di promozione della salute in strada con il camper del progetto Pending, dove stiamo consegnando delle mascherine, stiamo dando delle informazioni importanti alle persone anche per restare aggiornate sui cambiamenti, sui aggiornamenti delle normative. E durante questi incontri, che hanno comunque una veste piuttosto drammatica, abbiamo la fortuna di avere Gerardo che ci fa sentire anche una speciale voce di Paperino, giusto? Vai Gerardo, lo devi fare perché altrimenti il silenzio pesa. Va bene, lo faccio per i bambini, eh? Vai, inizio? Vai, vai. Ciao a tutti. Ecco, questa era Gerardo che faceva Paperino. È una di quelle cose che un po' mi imbarazza, però mi fa piacere sentire perché sembra quelle cose da vera radio. Che, insomma, grazie perché è una cosa bellissima. Oggi siamo andati alla moschea di Bellizzi. Abbiamo girato finora quelle di Battipaglia, Albanella, Eboli, Bellizzi. Bellizzi oggi, sì. Giornate un po' indicazioni particolari perché appunto bisogna riconfigurare alcune cose degli assembramenti, dei gruppi di persone che si ritrovano. Alessandra, tu come hai vissuto la notizia arrivata con l'ordinanza di ieri sulla chiusura delle scuole? Io in modo particolarmente, in modo drammatico. Allora, Alessandra Galatro, che nonostante la sua giovane età di 22 anni è attiva da tanto tempo nel dare supporto principalmente alle ragazze in provincia di Salerno e non solo, in tutta la rete della Campania, ragazze con background internazionale che si ritrovano magari in alcune condizioni particolari di difficoltà, di sfruttamento, possiamo dirlo, di sfruttamento della tratta, sfruttamento dell'essere umano, quindi non è solo sfruttamento sessuale, ma abbiamo avuto modo di approfondire con te anche in altre occasioni questo tema. All'interno della comunità dell'accoglienza delle ragazze che conosci è arrivata questa ferale notizia anche a te. Sì. che penso che anche a noi come genitori ha colpito. E la reazione qual è stata ieri, No, le oggi? ragazze, tutti quanti gli istituti superiori che fanno appunto corsi di alfabetizzazione o primo o secondo livello per adulti hanno iniziato le attività dopo rispetto insomma alle classi normali, tra virgolette, quindi avevano iniziato soltanto questa settimana. Quindi le scuole per gli adulti insomma hanno riaperto le porte lunedì pomeriggio con grandi difficoltà perché appunto anche loro si devono adeguare alle norme. Sono ospitati per lo più su Salerno alla Monterisi, quindi la CPA di Salerno li ospita nella sede della Monterisi, dove però la mattina fanno anche corsi per in scuole medie, quindi i ragazzi normali, voglio dire, nell'età giusta. Quindi c'è tutta una serie di procedure per la sterilizzazione, e quindi usano poi di pomeriggio le aule, quindi sono riuscite a mettersi al passo soltanto lunedì. E solo ieri poi è arrivata la notizia, insomma. Le ragazze molto dispiaciute anche noi, perché la didattica a distanza per gli stranieri poi, che hanno tanta voglia di imparare, la didattica a distanza non è una cosa molto semplice, non tutti possono accedere alla didattica a distanza, così come succede a tanti italiani, ma soprattutto nella fascia degli stranieri, sia per i figli ma anche per quanto riguarda l'istruzione per adulti, hanno delle difficoltà anche maggiori per poter seguire, nonostante, voglio dire, possono seguire sul cellulare, però non è semplice imparare determinate lezioni o imparare determinate materie a distanza, quindi la cosa ha un po' creato, insomma, degli scompensi, molto dispiacere da parte delle ragazze, anche degli operatori, perché comunque Sono occasioni che si perdono, poi a volte assolutamente sì. per alcuni stranieri che seguono le lezioni a distanza non è neanche così immediato magari intervenire come in presenza, perché Assolutamente. ne parlavo l'altro giorno, ci si fa molti problemi in più, magari ci si ritrova in un gruppo virtuale, Sì. un'aula virtuale dove non si conoscono le altre persone, se si ha una minima incertezza linguistica. È Non si ha, difficile è esporsi. difficile esporsi con una domanda, ed è difficile, credo, anche per chi insegna, e penso a chi fa questo lavoro con passione. Abbiamo conosciuto noi Eugenio Mastrovito, Rachele Fortunato, Giuseppe Di Marea dell'Arci. È difficile anche per un insegnante rendersi conto di qual è il grado di attenzione dei Sì. momenti di perplessità, perché immagino che come nel nostro lavoro sociale ci sono dei passaggi che sono fatti di sguardi di un attimo in cui uno può intercettare l'altra persona. È un peccato, credo Assolutamente. che con l'ordinanza sia venuta meno una specie di fiducia che accompagna operatori, genitori, studenti e istituzioni che in questa fase di riapertura complicata hanno dato il massimo e tutto sommato non avevamo notizie almeno nella nostra provincia di Salerno. Noi adesso siamo collegati dal bivio di Santa Cecilia che vi abbiamo raccontato nelle precedenti puntate. Tutto sommato qui la gran parte dei casi non riguarda le scuole, ma riguarda nello specifico, qui ora siamo nel comune di Eboli, riguarda alcune aziende agricole, riguarda altre realtà produttive che non sono state minimamente intaccate da nessun provvedimento, in nessuna fase del lockdown, Certo. insomma, fino all'ordinanza Però di come ieri, dicevi tu, ed è quella dove si concentrano. Dimmi, dimmi, no, sì. come dicevi tu prima nella nostra chiacchiera anche con Dorra, il bello era vedere la gioia di tante persone, mo, e anche nostra, degli operatori, la gioia era vedere appunto la gioia delle ragazze nell'andare a scuola, nel trovare una normalità, nel socializzare. E poi ci sono paesi, comunque tanti paesi della provincia, che sono così piccoli e così isolati, tra virgolette, la scuola è veramente occasione di socializzazione per un bambino e di crescita fondamentale, paesi in cui non ci sono contagi, insomma. Questa chiusura a tappeto sicuramente ha penalizzato tutti, soprattutto gli studenti, cioè questo è molto molto triste, anche perché non recupereranno mai, cioè questa è la verità. Sì, questo c'è un. Io mercoledì ho assistito ad una lezione di una mia ragazza, che era la prima lezione che faceva, la faceva già a distanza, perché comunque l'istituto, quindi il CPA, ha scelto di fare una parte in presenza e una parte in distanza proprio per evitare affollamenti. Quindi ha creato dei gruppi distinti, il gruppo che è a casa, quindi seguiva online, poi c'era il gruppo e quindi c'è una certa rotazione. la ragazza una cosa ha detto, alla fine chiudevano la lezione facendo un elenco, dimmi tre sogni, e la ragazza ha detto che è arrivata da poco da me, ha detto uno dei miei sogni è quello di conoscere i miei compagni di classe dal vivo. Cioè che è stata una cosa molto tenera, anche perché lei è molto tenera, però poi mi sono resa conto ieri dandole la notizia che insomma lei effettivamente, io mi auguro che il 30 si rientri, ma non credo sia, non credo sia così. Sì, c'è un appunto, no, abbiamo iniziato sperando di fare una cosa scherzosa con le, con Anna Marchesini che sì, elencava tutta una serie di scenari. Sembra però un po' che sia quello lo spirito, sì. Non, non, sicuramente non del andrà tutto bene, ma più del io speriamo che me la cavo. È un po' questo. Dorra, per esempio, tu hai conosciuto dei bambini, alcuni anche molto piccoli, qui nella zona, tra i comuni, se non sbaglio, di Battipaglia, di Bellizzi, proprio del comune dove siamo andati oggi. Hai incrociato stamattina, sì, in moschea alcuni dei tuoi allievi di lingua araba, se mi puoi raccontare appunto brevemente di questa esperienza. Sì, sì, sì, loro hanno partecipato al laboratorio lingua d'origine proprio al comune di Bellizzi, e questo pomeriggio li abbiamo trovati alla moschea, appunto erano con il loro... Loro dove vivono principalmente? La zona era questa dei comuni di Battipaglia, Bellizzi, Eboli? Loro sono più su Bellizzi. Ah, ok. Diciamo la maggior parte. Poi ci sono persone che erano solo di passaggio con la moschea, tipo che lavorano nella zona. Quelli che abbiamo incontrato stamattina. Sì, perché stamattina già ho trovato delle persone che andavano più verso Battipaglia. E quindi forse si sono trovati nella zona e sono andati a fare la preghiera. Possiamo dirlo, è una categoria, quella dei bambini che vivono in questa zona, ora al di là di Santa Cecilia, ma penso ai comuni qui della Valle del Sele, sì. Non ci capita così spesso di vederne. Ci è capitato prima dell'inizio della scuola di vederne un po' di più, grazie ad Alfredo Orientale, che salutiamo, che siamo che è uno dei nostri compagni di viaggio, ecco, della squadra, siamo riusciti anche a consegnare delle mascherine per i più piccoli che ritornavano a scuola. I bambini, dicevo, e le donne sono alcune delle figure che non riusciamo a incrociare così spesso, sì. Almeno qui in strada, in alcuni punti dove invece è più forte la presenza di uomini che sono qui per lavoro. Per i bambini che hai incrociato tu, quale può essere secondo te la vita fuori da, senza una, cioè qual è l'importanza della scuola, del tempo passato con altri bambini italiani in un'aula, a far parte di una comunità, non lo so, com'è? È molto importante. Uno per due aspetti, perché ci sono bambini che magari che sono arrivati anche da poco mesi o anche anni, che sanno già nell'inizio dell'apprendimento della lingua italiana, l'insegnamento nelle scuole, quindi questa cosa non le aiuterà per niente, né a socializzare con gli altri bambini. E un altro aspetto è quello delle donne, che stesso nella, per esempio parliamo adesso di Bellizzi, che stanno in attesa da un paio di mesi di avviare il corso dell'alfabetizzazione della lingua italiana, quindi da in presenza. Presenza, e quindi aspettavano il rientro dei bambini nelle scuole, appunto perché è l'unico momento che hanno quando i bambini vanno a scuola. È il telefono del numero verde del progetto Pending. un momento prezioso per loro per poter sfruttare e andare a fare altro che occuparsi dei bambini. Questa... E quindi adesso un'altra problematica si aggiunge anche, non solo per i bambini, ma anche per le donne che dovevano seguire. Questo penso per voi donne, quello che hanno ampiamente descritto tutte le statistiche della fase del lockdown e fino ad oggi, perché poi appunto gran parte del peso, non del peso, però del, cioè, non vorrei usare termini impropri, la responsabilità forse, ecco, più che il peso, la responsabilità del figlio, dei figli, tante volte perché ce ne sono più di uno, ricade sulla donna che sta a casa e che magari non può andare a lavorare, non perde anche quelle occasioni di far parte del territorio in cui vive. Alessandra, anche tra le ragazze che tu accompagni nel percorso di autonomia e di evoluzione, di crescita, tante ragazze, anche giovani, hanno dei bambini. Assolutamente sì. Io credo, no, che ci sia un'organizzazione anche Nel certosina nostro di caso tutti. sono anche fortunate, a differenza di tantissime donne migranti che invece si trovano da sole, perché comunque nell'organizzazione e nella gestione dei bambini hanno sempre un supporto da parte degli operatori. Però è chiaro che poi, quando tu le avvii all'autonomia, ti rendi anche conto che loro a volte questa situazione ha creato degli scompensi. Noi ancora oggi ci occupiamo di bambini, di donne che sono fuoriuscite dai programmi di assistenza, ma che comunque lav e lavorano, ma che in questo momento non hanno l'assistenza giusta perché stamattina si sono ritrovati con i figli a casa. E quindi noi, perché siamo un punto di riferimento e costituiamo poi una sorta di rete sociale barra famiglia, però mi rendo conto per tutte le donne migranti che sono sole e non hanno una rete familiare né amichevole, la situazione è veramente drammatica. Ed è questo che porta. Effettivamente io mi sono resa, nei primi mesi noi del lockdown e quindi della quarantena, noi dicevamo la nostra vita cambierà, la nostra vita cambierà. Poi ci siamo resi conto che alcuni cambiamenti ormai sono entrati a far parte della nostra vita normale. Però voglio dire, questo sprazzo di vita che abbiamo avuto, fra virgolette, che si è avuto con la riapertura delle scuole, vedercelo togliere così, è chiaro, i contagi sono altissimi, è chiaro anche che però c'è anche una cattiva gestione di questa situazione. Però io mi rendo conto che tante famiglie che si sono ritrovate ieri sera alle 10 di sera, perché alle 10 ancora era C'erano volata la solo delle notizia, anticipazioni, però alle poi il 10 di testo sera. Madri definitivo, lavoratrici, madri anche non lavoratrici si sono ritrovate in una situazione da poter dover gestire da stamattina rivoluzionare la in una giornata notte, sì, in insomma. un out. I dati di ieri del Covid, noi ieri abbiamo fatto un'uscita con il camper, con Camel, con Alfredo Orientale, con Nina Iboeva, l'altra mediatrice del progetto Pending sul camper. Abbiamo affiancato la consegna dei pacchi alimentari, insomma, c'era un'occasione dove poter intercettare delle persone che altrimenti non riusciamo a trovare nei posti canonici di scambio. Sono persone che vivono del tutto ai margini e in contesti di forte vulnerabilità. Insomma, sono territori sulla litoranea che anche tu per l'antitratta con le uscite conosci molto Certo. bene e vivono, non dico nascoste, ma vivono proprio ai margini di tutto, di tante cose. Sono persone che continuano a lavorare e non si vedono altrove. Quindi siamo andati lì, abbiamo dato supporto, consegnato i materiali informati. Abbiamo notato e abbiamo letto mentre eravamo lì, dopo questo aumento esponenziale dei casi, che dovesse succedere qualcosa di brutto, ce lo aspettavamo. È vero pure che ieri e negli altri incontri che stiamo facendo sul territorio ci rendiamo anche conto di alcune cose che mancano per presidiare poi il territorio in modo più efficace, più corretto, perché appunto la soluzione che forse è più facile quella di tenere ai margini lavoratori, ragazzi che sono arrivati da poco, stranieri italiani, europei, non europei. Abbiamo ieri incontrato di tutto, no? Tante nazionalità anche diverse. E forse appunto quello di mettere le persone ai margini e lasciarli lì si creano poi delle potenziali sacche di contagio su cui poi non si ha nessun controllo. E la rabbia, ecco, per chi poi si vede chiuse le scuole, è questa. Camel, forse la scuola di tua figlia era rimasta chiusa per un contagio, avevano fatto dei Sì, controlli. è rimasta chiusa, sì, perché c'era un contagio, una ragazzina, e quindi ha iniziato già dalla settimana scorsa a seguire i corsi a distanza, quindi stava sempre a casa e quindi un po' Cioè, la difficoltà, chi mi dice papà, mi scoccia, sì, mi sembra a distanza i corsi, quindi ti capisco Cioè, perfettamente. c'è stato un caso positivo, poi hanno fatto dei Sì. controlli, mi pare che però mi dicevi che la situazione era Sì, tutto sommato dopo una settimana, rientrata. però non hanno deciso di dare la data di rientro, quindi dopo ieri è uscita questo decreto, quindi Come l'ha presa lei a casa tua di questa? l'ha presa nel senso una parte che i ragazzi la prendono che sono contenti e non vanno a scuola, non lo so perché, però Beh. una parte, cioè quella parte che dice che faccio. Sigo a distanza ancora per un po' di tempo, è dura perché dalla mattina fino quasi il pomeriggio, 4 ore, 5 ore da seguire a distanza, si rende un Poi po' adesso forse è ridotto. più dura, ci sono giornate come questa che abbiamo incontrato adesso, dove c'è un tempo che definire grigio è dare un complimento a quello che ci circonda in questo momento, e quindi sicuramente no, sembra di essere quasi ricoverati in una stanza di ospedale, perché non si può uscire, non si può fare, almeno insomma non è così scontato per tutti. Ci siamo, diciamo, questo è quello che è successo almeno in questi giorni. Continuiamo per quanto possibile. La settimana scorsa, per esempio, non è stato possibile farlo perché in mezzo, come abbiamo scritto anche sui vari canali social, ci sono degli imprevisti che la strada comporta, però cercheremo di mantenere il passo settimanalmente con questi incontri. Gerardo, visto che tu hai cambiato posizione, Sì. volevo chiedere un saluto finale agli ascoltatori da parte di Bombolo. Se qui con noi possiamo evocarlo come una seduta spiritica, se sei concentrato, prenditi il tempo che vuoi. Va bene. Mi fai ridere perché ci Io vuole un po' di concentrazione, lo no? so, ma diventiamo seri in un attimo. I saluti Va bene. finali però li lasciamo a Bombolo. Buonasera a tutti. Ciao! Perfetto, Ciao! grazie. Ciao a tutti da Gerardo, Dora, Camel, Alessandra, tanti auguri Ciao! ancora e a presto, alla prossima da Grazie, grazie Giulio. per il bellissimo Ciao. compleanno. Ciao a tutti.